2024 di Enrico Pagliarini. Ci siamo anche questa settimana, la puntata del 16 e 17 agosto 2014. Benvenuti o bentornati a 2024. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Se non volete essere rintracciati, si fa per dire, potete inviarci anche una lettera cartacea, via Monterosa 91 a Milano. Dico questo perché parleremo di privacy, di hacking tra poco, a proposito di sistemi per non farci rintracciare. Allora, vi dico subito che non abbiamo ancora una risposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, non ci siamo ancora, lo faremo la prossima settimana, non ci siamo ancora rivolti al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, riguardo l'allarme lanciato da AssoProvider, la principale associazione che raggruppa gli Internet Service Provider che usano tecnologie senza fili, spesso con tecnologia chiamata Hyperlan, simile al Wi-Fi, per connettere in tutta Italia circa 1,5 milioni di utenze, quindi sono un sacco i clienti che usano internet in modalità wireless, hanno una piccola antenna sul tetto, sul balcone, comunque fuori dall'appartamento, e ricevono il segnale internet via radio, laddove non esiste la DSL o comunque anche in alternativa alla DSL, dove la DSL esiste. Allora, secondo AssoProvider, il Ministero starebbe pensando ad una interpretazione più restrittiva delle norme, in particolar modo su una delle frequenze utilizzate, quella sui 5 GHz. Una restrizione di questo tipo metterebbe a rischio la continuità del servizio, secondo AssoProvider, e quindi, pensate, tutti questi utenti avrebbero difficoltà a connettersi a internet, potrebbero non connettersi più con questa tecnologia. Vedremo se sarà così qual è il perimetro all'interno del quale ci si sta muovendo. Tuttavia diciamo che sarebbe più opportuno invece rivedere le norme invece che in senso più restrittivo e in senso più liberale, perché abbiamo una grande necessità di connettere più persone ad internet. Comunque sentiremo la risposta del Ministero. Allora, parleremo anche di DEFCON, una conferenza di hacker molto famosa negli Stati Uniti, si tiene a Las Vegas ormai da 21 anni, c'è stata lo scorso weekend, quindi non potevamo aggiornarvi durante lo scorso weekend, se ne è parlato molto quest'anno, anche perché il mitico John McAfee, che ha fondato la McAfee, l'azienda di sicurezza che è stata poi acquistata dalla Intel, ha parlato durante DEFCON e ha detto: sapete cosa dovreste fare per garantirvi il massimo della privacy? Usare un vecchio telefonino stupido, non uno smartphone. E lui dice: io uso un vecchio telefonino. Non è l'unico, ce ne sono parecchie di persone che lo stanno facendo già da un po' di tempo, soprattutto top manager, ma non solo, persone che hanno capito quanti dati grazie ad uno smartphone noi cediamo a terzi, e hanno detto: no, io lo smartphone non lo uso più e uso soltanto un telefonino vecchio stampo. Ne parleremo tra poco, adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Allora, ci sono parecchie notizie questa settimana, perché il mondo prosegue, quasi tutto il mondo non fa festa, non riduce il ritmo di lavoro come facciamo noi in Italia in questa parte centrale di agosto. Allora, parliamo di smartphone, perché a settembre dovremo vedere una nuova sfornata di nuovi smartphone, a proposito di smartphone e di vecchi telefonini. Allora, inizierà Samsung il 3 settembre, poco prima dell'inizio di una delle più importanti fiere di elettronica in Europa, l'IFA di Berlino. Allora, il 3 settembre con la presentazione del Galaxy Note 4, il giorno dopo sarà il turno di Motorola, ma sarà a Chicago, lancerà due smartphone e uno smartwatch basato su Android Wear, e sempre il 4 settembre Microsoft presenterà i nuovi smartphone Lumia. Sembra oramai certo che Apple annuncerà l'iPhone 6 il 9 settembre, ma non sarà l'iPhone, saranno gli iPhone, perché dovrebbero essere due prodotti, uno da 4,7 pollici e l'altro da 5,5 pollici. Quindi uno Il più piccolo sarà comunque più grande dell'attuale come display e poi questo grande display da 5,5 pollici. Digital News. E negli Stati Uniti c'è già chi si domanda: ma sarà comodo da tenere in un'unica mano e da muovere con un'unica mano il nuovo iPhone? Perché una delle caratteristiche dell'iPhone è che si maneggia molto bene con una sola mano. Oramai questi molti altri smartphone che sono molto grandi sono maneggiabili con difficoltà con una sola mano, quindi già negli Stati Uniti c'è chi si domanda, ho letto un lungo articolo che dibatte su questo tema già prima di vederlo e di provarlo. A proposito sempre di smartphone, Samsung ha lanciato un nuovo smartphone che segna una discontinuità con il design finora visto sui Galaxy. Il Galaxy Alpha è arrivato sul mercato russo, è il primo che usa l'alluminio, almeno nella cornice. Samsung da tempo è stata criticata per l'uso massiccio della plastica ed è sicuramente in cerca di una novità per tentare di frenare l'ascesa dei concorrenti come gli smartphone cinesi a prezzo basso, ne abbiamo parlato anche recentemente, o anche di concorrenti come LG, che sta facendo molto bene soprattutto con il nuovo G3. Digital News. A proposito di Apple, la conferma che all'inizio di settembre verranno presentati nuovi prodotti. Pensate che il segretario generale delle telecomunicazioni della Thailandia ha rivelato che il suo ufficio ha approvato la richiesta di distribuzione in Thailandia di due nuovi modelli di smartphone Apple a settembre, il che lascerebbe anche pensare che Apple potrebbe fare un lancio mondiale in un sol colpo, visto che la Thailandia di solito non viene inserita nella prima ondata di vendite, e anche questa sarebbe sicuramente una novità nella strategia di Apple. Twitter ha fornito nuovi dati all'autorità di controllo della borsa americana, la SEC, e si legge una cosa interessante, che su 271 milioni di utenti attivi, circa 23 milioni sarebbero attribuibili a macchine, comunque non a umani. Molti di questi sono legati a servizi spam, ma molti account sono anche utilizzati da siti web per segnalare notizie o altre informazioni. Sono sistemi automatici che vanno a pescare da un database e sparano il tweet. Ad esempio, giusto per farne uno tra i mille, il servizio che segnala le scosse di terremoto è un sistema automatico. Ogni volta che c'è una scossa che supera un certo indice, viene generato un tweet e uno può vedere su Twitter tutto l'aggiornamento in tutto il mondo. La cosa importante e interessante per quanto riguarda Twitter, che è quotata in borsa, questi 23 milioni di utenti non umani rappresentano una potenziale perdita economica per il social network, che vende naturalmente pubblicità sulla base del numero degli utenti, e se si scopre che 23 milioni di utenti non sono uomini, quindi non possono ricevere, non possono vedere tweet pubblicitari, e questo naturalmente crea un problema per una società che tra l'altro è quotata in borsa, e quindi può creare problemi anche di carattere finanziario. Digital News. A proposito di privacy, mercoledì è stato lanciato dalla California WorldView 3, un nuovo satellite della Digital Globe, con una serie di fotocamere e sensori capaci di scattare fotografie della superficie terrestre e tutto quello che c'è, anche il giardino di casa vostra, con una risoluzione di circa un piede, quindi sono circa 30 centimetri. Digital Globe gestisce una costellazione di 6 satelliti che scattano foto satellitari, è specializzata in questo settore. I clienti sono agenzie governative, società minerarie o petrolifere o altri tipi di società come Google o Microsoft, che poi le vanno a infilare nelle mappe che noi possiamo vedere su internet. È certo che pensare a questa risoluzione che diventa sempre più particolareggiata può creare anche qualche preoccupazione di carattere privacy. Allora, in realtà, a proposito di quello che dicevo prima, che ci sono molte notizie, ho altre tre notizie. La prima riguarda una serie di acquisizioni. Allora, non passa settimana che Google non faccia un'acquisizione. Questa settimana è stata acquisita Jetpack, una startup che io non ho mai sentito nominare, che usa fotografie prese dai social network per creare guide cittadine. Altra acquisizione interessante è quella che ha fatto Samsung in California, a una società che si occupa di acquisizione di startup, ha comprato SmartThings, una startup che produce sensori e apparecchi per connettere varie cose che abbiamo in casa. Stiamo parlando del mega trend della domotica e della Internet of Things. Vari aggeggi che poi possono essere comandati con lo smartphone: videocamere, sensori per l'apertura della porta, delle luci per guidare gli elettrodomestici. Questo è un tema interessante, ne riparleremo presto anche con alcuni esperti che stanno facendo alcune cose nel settore della domotica. È uno dei mega trend che si stanno osservando in questi tempi, e naturalmente il settore della domotica si sta sviluppando in linea con questo fenomeno che viene chiamato Internet of Things, quindi tutte le cose, cioè che dice everything, Internet of Everything, come Cisco, tutte le cose, comunque molte cose, vengono dotate di intelligenza e di connettività, si possono collegare alla rete internet e possono fare cose molto interessanti. Pensate, che ne so, ad una lampadina. La lampadina è un esempio molto banale, che si può connettere, si può spegnere e accendere con lo smartphone. Ma uno dice, vabbè, in casa mia che me frega. Pensate a sistemi un po' più complessi, o comunque, che ne so, quando siete usciti di casa potete assicurarvi che le luci siano spente. Ma questo è appunto un esempio molto molto banale. Allora, c'è stata un'altra importante acquisizione: Ask FM, magari alcuni di voi lo hanno utilizzato, è stata acquistata dal gruppo americano IAC. Ask è stata al centro di numerosi casi di cyberbullismo che hanno portato anche a suicidi di adolescenti. Se ne è parlato molto in Gran Bretagna proprio perché c'è stato un caso recente nel Regno Unito. Comunque questo è un sito che ha, pensate, 180 milioni di visitatori al mese, serve per fare domande e ricevere risposte. Però visto che si possono fare alcune cose anche in modo anonimo, ci sono stati degli usi non proprio leciti di questo sistema. Comunque l'acquisizione è importante anche perché IAC ha già molti siti popolari come about.com, dictionary.com, Match, che è un sito molto famoso, molto noto e molto utilizzato per gli incontri online, The Daily Beast, sito di informazioni piuttosto famoso, Tinder e anche Vimeo. Vimeo è molto noto perché diciamo che è probabilmente l'alternativa più grande e credibile a YouTube, tra l'altro con video anche molto belli di alta qualità. E quindi IAC, avendo anche Vimeo, ha un bouquet, una serie di prodotti da offrire al mercato pubblicitario molto interessante. Ultima cosa che vi dico prima di ascoltare John McAfee. Allora, visto che sia l'antitrust che l'AGCOM, quindi l'autorità garante della concorrenza del mercato e quella garante del settore delle comunicazioni, si stanno occupando di TIM e Vodafone, allora se siete clienti TIM o Vodafone sappiate che da qualche tempo, da qualche giorno, i servizi Lo sai e chiama ora di TIM e Chiamami e Recall di Vodafone sono diventati a pagamento, erano gratuiti e adesso sono a pagamento, quindi sappiatelo, decidete poi di conseguenza se rimanere abbonati a questi servizi oppure staccarvi, quindi non pagare le notifiche che vi arrivano sullo smartphone o sul cellulare vecchio tipo. Che cosa dice John McAfee? Allora, John McAfee ha parlato, vi dico subito, ad una conferenza che si chiama DEFCON, ne abbiamo parlato poco fa. DEFCON è nata 21 anni fa, è molto interessante perché ad ogni metà di agosto si trovano lì migliaia di hackers. Quest'anno hanno partecipato circa 17.000 persone, ma non c'è nessuna registrazione. Sapete che quando andate alle fiere, diciamo a qualsiasi grande appuntamento, c'è la registrazione, ci si deve iscrivere, lì no, perché è meglio stare anonimi. Allora, si pagano $200 in contanti, dicevo, meglio restare anonimi perché ci vanno tutti, dalle agenzie governative ai malicious hackers, quelli che vengono definiti black hat, che hanno il cappello nero e che sono i cattivi. Difficile distinguerli perché non è che girano col cappello nero, ci sono anche quelli col cappello bianco, white hat, che sono invece gli hacker che lavorano nello spirito tipico dell'hacking, cioè quello di scoprire che cosa non funziona in un sistema, trovare la soluzione per poi farlo funzionare. Comunque è un appuntamento estremamente importante che si è trasformato nel tempo, perché una volta si trovavano solo questi personaggi, a volte anche un po' discutibili, e nel corso degli anni invece partecipano, oltre che alle agenzie governative, anche alle aziende, le aziende tradizionali o le aziende specializzate in sicurezza, perché vanno oltre che a scoprire novità, ma anche per assumere persone, perché oramai c'è un mercato molto ricco di esperti di sicurezza che hanno appunto un proprio mercato, che vengono acquistati e vengono convocati dalle aziende in questo sistema sempre più complesso. Continuiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi: 2024@radio24.it. Potete utilizzare anche Twitter e Facebook, sia il nostro account ufficiale della trasmissione sia il mio personale. Dunque, John McAfee ha fondato nel 2010, ha fondato parecchi anni fa una società di sicurezza famosa per l'antivirus, il McAfee. Nel 2010 l'ha venduta a Intel per 7 miliardi di dollari. Oggi fa altro, ha avuto anche dei problemi con la giustizia in Belize e quindi ha un po' di problemi in giro per il mondo. Comunque McAfee ha fatto la sua apparizione a DEFCON, a questa conferenza internazionale di hacking, di sicurezza a Las Vegas, e ha raccontato un po' di cose. La cosa principale, che non è una novità assoluta perché ci sono altre persone che si comportano in questo modo, riguarda però l'uso degli smartphone. Ha detto: attenzione, perché gli smartphone stanno spiando tutti i consumatori, dice, americani, ma poi traduciamo in tutto il mondo. E allora io ho deciso di proteggere la mia privacy e di utilizzare un telefonino stupido, quindi un vecchio telefonino che non ha possibilità di installare software su un sistema operativo, che sia Android, che sia iOS, che sia BlackBerry, che sia un altro sistema operativo come Windows Phone o tutti gli altri che stanno nascendo con un po' difficoltà, però c'è un'alternativa. Questa è la notizia, insomma, che ha fatto discutere tutti i media americani questa settimana. Sentiamo McAfee in un'intervista ad una televisione americana, dove racconta delle cose in modo più chiaro rispetto a quello che ha fatto durante la conferenza. Qui sono, diciamo, tradotte, riassunte molto più in modo molto più sintetico. Well, Google makes its money, and so does Facebook and almost every online company, by collecting information. If it didn't collect information, it would go broke. The information it collects is where are you? What are you buying? What are you doing? What do you like? What do you dislike? Allora, che cosa dice John McAfee? Google, Facebook e altre società, molte altre società della rete, fanno soldi raccogliendo informazioni. Se non lo facessero andrebbero fallite, e questo è un dato che conosciamo. Raccolgono informazioni, ad esempio, su dove ti trovi, che cosa ti piace, che cosa non ti piace. È un sistema intrusivo che ha invaso ogni parte della nostra vita. It's an intrusive system that has invaded every part of our lives. And it's not just Google. It's most of the free apps that you download. You give permissions, like you can turn the camera on, listen to you, send SMS messages, read your SMS messages, read your emails. It's astonishing the freedoms that we have given up, or the privacy that we have given up willingly. That's laziness. Ma non solo Google, tutte le applicazioni gratuite che chiedono accesso ad ogni nostra informazione, e questo avviene anche perché noi siamo pigri. You say Google's not the only company. You're singling Google out now. What other companies would you point out? Well, I would say Facebook would be number two, but Google is by far the front runner. La conduttrice chiede a John McAfee se è solo Google o se può menzionare anche altre società, e lui dice: Google è di gran lunga la principale società che si sta invadendo la privacy di ogni cittadino americano. È scioccante quante informazioni sanno su di noi, ma non c'è solo Google, ci sono molte altre società, e come diceva prima John McAfee, tutte le applicazioni gratuite alle quali noi concediamo accesso ai dati del nostro smartphone senza prestare tanta attenzione sono una potenziale minaccia alla nostra privacy. E proprio per questo motivo John McAfee ha detto, anche durante questa intervista, ma in modo più esplicito durante la conferenza DEFCON, che lui da tempo utilizza solo vecchi smartphone stupidi che non abbiano possibilità di avere un software installato. O naturalmente in questo caso le autorità possono accedere ai nostri dati, possono ascoltare le telefonate, possono vedere gli SMS attraverso gli operatori quando un magistrato lo richiede, ma non è possibile, o comunque con molta più difficoltà, accedere allo smartphone, al telefonino da parte di terze parti. Oggi invece con uno smartphone basta realizzare un'applicazione magari simpatica e con quell'applicazione poi carpire dati, non necessariamente in modo malevolo per combinare danni, ma anche solo per raccogliere informazioni che possono poi essere rivendute per pubblicità. Questo è un tema molto interessante, visto che io conosco anche una persona che ha partecipato anche a 2024 che si comporta proprio così. La intervisteremo presto per capir meglio il motivo di questa preoccupazione. Prima di concludere questa puntata vi faccio ascoltare un'intervista che abbiamo realizzato qualche mese fa con Andrea Zapparoli Manzoni, che trovate sul nostro sito internet in versione integrale. Andrea Zapparoli Manzoni fa parte del consiglio direttivo del CLUSIT, era nei nostri studi per presentare il rapporto sulla sicurezza informatica del CLUSIT e abbiamo parlato di alcune cose che succedono e soprattutto alcune cose che accadono alle aziende anche italiane che sono attaccate, e i numeri di attacchi, dei cyber attacchi di hacker in tutto il mondo sta crescendo e quindi dovrebbero crescere anche le contromisure, ma non sempre questo viene fatto. Che cosa viene rubato? Brevetti, metodi, informazioni sensibili di business legate alla produzione, legate alla clientela, legate alle forniture di materie prime, tutte informazioni che possono essere usate per fare concorrenza sleale. Il cybercrime rappresenta la metà di questi attacchi. Per cybercrime che cosa intendiamo? Intendiamo una categoria di attaccanti che ha delle finalità precise, che sono sostanzialmente quelle di ottenere un guadagno economico immediato senza preoccuparsi particolarmente di risultare invisibile. Quindi stiamo parlando di un ecosistema molto complesso, estremamente ramificato e articolato, all'interno del quale i vari attori si scambiano servizi, c'è un'economia floridissima underground. Tra questi gli hackers, come è nella diciamo mitologia hollywoodiana, sono una quota assolutamente minoritaria, sono produttori di alcuni strumenti o di alcuni software che poi vengono usati da soggetti che sono a tutti gli effetti dei criminali, non certo. Sono degli hacker. Quindi la metà di ormai questi attacchi, e possiamo, diciamo, anche se appunto tu mi dici sull'Italia abbiamo meno dati, possiamo dire che grosso modo la stessa cosa vale per il nostro paese? Senz'altro, infatti abbiamo segnalato nel rapporto che è particolarmente diciamo sospetto il fatto che sul cybercrime nel mondo abbiamo una percentuale intorno al 50% e in Italia ce l'abbiamo intorno al 17%. Significa che non conosciamo tante informazioni. Che è molto strano. È molto improbabile che a parità di tutte le condizioni al contorno l'Italia abbia percentuali differenti. Senti. Allora, nell'altra, diciamo, nell'altra metà del crimine digitale, voi avete inserito due grossi fenomeni che sono l'activism, che non so se posso tradurre come attivismo digitale. E in questo caso di cosa stiamo parlando? Qui stiamo parlando di gruppi antagonisti di estrazioni diversissime che in alcuni casi fanno riferimento alla etichetta, io la definisco così, Anonymous, sì, sicuramente sì. Molti ne hanno sentito parlare, ma in realtà non c'è un'organizzazione centrale, non c'è una regia unica, sono gruppi che su tematiche di particolare interesse per loro provano

torniamo la prossima settimana alle nostre puntate in versione integrale, cioè versione integrale, versione più ampia, più lunga di un'ora, partiranno alla metà del mese di settembre. Un buon ascolto con i nostri programmi e ancora un ringraziamento per il vostro ascolto. 2024.